Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di approfondimento di Radio 24 per quest'oggi 27 settembre. È stato l'inventore del fumetto più diffuso e popolare in Italia. Sergio Bonelli se n'è andato ieri a 79 anni, una vita spesa tutta dentro ai fumetti. Il 6 ottobre 2010, quasi un anno fa, Italia in controluce mandava in onda una puntata con un reportage di Dario Ceccarelli che festeggiava il 600° numero di Tex. Eccolo qua, Tex Wheeler, dopo 62 anni a cavallo del vecchio West, ancora una bella cera, capelli neri, mascella volitiva, due colt micidiali, il nostro ranger non ha voglia di finire in pensione e oggi, insieme al suo pard Kit Carson, andrà in edicola a controllare se il suo albo numero 600 è bene in vista, come merita una delle leggende del fumetto. Nato dalla formidabile fantasia di Gianluigi Bonelli, Tex con le sue storie attraversa l'Italia del dopoguerra, sopravvivendo sia alla Prima Repubblica che alla diffusione dei computer e dei cellulari. Tutto cambia, gli onesti diventano disonesti, ma lui con sganassoni e revolverate non smette di combattere le ingiustizie. E i suoi lettori, fedeli come i carabinieri, ancora oggi Tex vende 220.000 copie, lo premiano seguendolo nelle sue avventure, come racconta Sergio Bonelli, figlio d'arte, editore e anche autore di Tex. Allora Bonelli, 600 numeri, un bel botto. Beh, un po' presuntuosamente diciamo che ci siamo abituati un po' per volta, perché sa, già arrivare per esempio al 100, vabbè, si può anche, ma man mano che abbiamo raggiunto i 200, i 300, i 400, diciamo che abbiamo fatto il nostro preallenamento, per cui non ci ha colti del tutto impreparati, Tex, ecco. Quindi voglio dire che aumenta ovviamente l'orgoglio, però ripeto, eravamo pronti. Annotazione semplice: Tex è uscito la prima volta nel 48, adesso 48. Siamo nel 2010. È più cambiata l'Italia o Tex? Beh, è cambiata tantissimo l'Italia. Tex è cambiato passando di mano in mano, inutile negarlo, perché passando da Bonelli padre, che lo scriveva proprio credendoci totalmente e con una sua immedesimazione quasi personale, e addirittura di look, mio padre, andavamo a sciare e lui aveva sempre, oltre alla camicia da cowboy, aveva il cappello Stetson, aveva quella cravattina che abbiamo preso insieme in America, in zona dei Navajo, e quindi lui proprio si medesimava molto, mentre gli altri che gli hanno scritto, cominciando da me, facevano fatica ad attribuire al personaggio quelle reazioni che avrebbe attribuito Bonelli padre. E quindi un po' per volta è chiaro che è cambiato, e l'Italia è cambiata in modo, ma io direi totale. C'è un dibattito su Tex: uomo d'ordine o difensore dei deboli? Tex di destra o di sinistra? Anche quelli ci siamo abituati ormai nel tempo, perché io quando ero ragazzo, quando Tex vendeva persino meno, mi ero proprio abituato a vedere che questa o quella vignetta, avulsa dal contesto, poteva essere attribuita sia ai democristiani, sia ai comunisti, sia ai partiti di centro, e quindi voglio dire, è un giochino che si presta facilmente alle mille possibilità, quando lui si scaglia contro i militari è facile attribuirgli una valenza politica, quando poi si butta contro il sistema bancario anche quella è facile attribuirgli qualche cosa. Quindi senza nessuna volontà da parte nostra, noi cerchiamo proprio in tutti i modi di non toccare degli argomenti di questo genere, così altamente ideologici, in favore o della religione, di questo o di quest'altra, oppure del partito, eccetera, eccetera. Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. E a proposito di destra o di sinistra, tra i fedelissimi con tanto di collezione completa c'è Sergio Cofferati, l'ex leader della CGIL, detto anche lo sceriffo, quando era sindaco di Bologna. Cofferati. Sì, ma credo di averlo detto anche pubblicamente. Lo sceriffo nel mio immaginario è una figura positiva, è l'uomo della legge che fa rispettare la legge ed è l'uomo che ripara i torti, come nel caso di Tex, che è un ranger, capo dei Navajo, combatte il male, difende i deboli, insomma, è politicamente corretto. Nei primi numeri c'era qualche scivolone, ma insomma il rapporto con i cinesi non era dei più corretti. Li chiamava i musi gialli. Era un insulto che ricorreva, però non era lui a chiamarli così, erano i malavitosi che confliggevano con altre bande di persone poco per bene. Insomma, il massimo di violenza che Tex arrivava a consumare era il famoso cerino acceso tra le dita del malvagio stordito per farlo rinvenire e convincerlo a non insistere nelle sue malefatte, oltre non siamo mai andati. Però Cofferati non mi ha risposto alla domanda: Tex è di destra o di sinistra? Ha ragione, ma non l'ho fatto apposta. Oh no, è carità. Lo consideriamo un gioco come tale. Sì, certamente. Anche... Diciamo, adesso uscendo un po' dallo schema destra e sinistra, è portatore di valori positivi. E questo rapporto, ad esempio, con gli indiani. Lui è un bianco che vive con gli indiani. E gli indiani sono buoni e cattivi, no? Non sono tutti uguali. È un rapporto positivo. Viviamo in una società che ha paura del diverso, diverso per religione, per appartenenza, per colore della pelle. Tex no, Tex è uno di loro, ha un'idea del rapporto paritario tra gli indiani e i bianchi, che è molto bello, è positivo. Tex nasce nel 1948, proprio come Cofferati. Questo me lo ricordo, che siamo nati insieme. Ho cominciato a leggerlo subito, ma non molto tempo dopo. No, l'Italia è cambiata moltissimo, ma anche il formato di Tex. I primi Tex che ho avuto per le mani quando ero piccolo erano le strisce da 20 lire che compravo insieme al Corriere dei Piccoli, altra gloriosissima testata scomparsa. Sì, Tex tende a conservare gran parte della sua configurazione, l'invecchiamento è relativo. L'unico che è invecchiato davvero è Kit Carson, è il giovane Kit che è cresciuto, gli altri due sono immoti nel tempo. Anche le storie mantengono una precisa configurazione. Una volta uno dei redattori mi disse che aveva tentato di introdurre qualche piccolo elemento di novità, soprattutto relativo alla dimensione affettiva dei suoi personaggi, ed era stato scoraggiato dalle proteste dei lettori. Eh già, i lettori, quando c'è di mezzo Tex, non vogliono sentire parlare né di amori né di fidanzamenti. Sergio Bonelli ricorda come suo padre era riuscito a trovare un escamotage per uscire dalla spinosa questione. Mio padre aveva inventato un modo per tirarsi fuori alla svelta da questa situazione, perché lui diceva che Tex, ovviamente, essendo un uomo così anche atletico, aveva tutte le possibilità amorose che hanno gli uomini come gli altri, e che però lo faceva tra un albo e l'altro. Ecco, quando ne finiva uno e ne cominciava un altro, lui nel frattempo era andato un po' a donne. Insomma, anche Tex è un uomo, e tra gli edicolanti, per svecchiare il pubblico, ce n'è anche uno che lancia una proposta provocatoria, sicuramente poco gradita dal vecchio Kit Carson. Tex viene comprato dagli aficionados. Raramente mi capita di vendere Tex a persone giovani o a persone che sono di passaggio. Posso dare un suggerimento a Bonelli? Allora, una battuta: rinnovarsi, Tex fa outing e dichiara di essere sempre stato gay. E finalmente avremo una svolta nella storia di Tex. Italia in Controluce è la seconda edizione. Vi ricordo Facebook, pagine gruppo, Twitter, il blog su radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con un'intervista di Raffaella Calanda a Gerardo D'Ambrosio sulla vicenda del caso Penati e dell'inchiesta sulla autostrada Milano-Serravalle.